Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Governo, raggiunto l'accordo oggi in Consiglio dei Ministri, il decreto rilancio 55 miliardi dalla cassa integrazione al taglio dell'IRAP. Via anche alla regolarizzazione di braccianti, colf e badanti, chi ha già lavorato avrà un permesso di 6 mesi. Quasi 300.000 le vittime al mondo per il coronavirus, cresce il contagio in Brasile, per l'Europa il commissario Gentiloni propone un piano di rilancio da 1.000 miliardi. Bagarre in aula alla Camera, un deputato leghista definisce Silvia Romano neoterrorista, il PD parole inaccettabili. E buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24 che inizia con anche oggi l'attesa. Questa volta però dovrebbe essere un'attesa breve, perché parliamo del Consiglio dei Ministri convocato per le 14, dopo che già nella giornata di ieri era prevista la riunione dei ministri del governo presieduta dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e poi l'incontro, il vertice di maggioranza è andato avanti fino a notte inoltrata con un esito positivo. È stata dunque raggiunta l'intesa sui nodi aperti, dalle coperture dei 55 miliardi di spesa per sostenere i vari settori in crisi fino alla regolarizzazione dei lavoratori. Partiamo da qua. Siamo esseri umani, non braccia. Siamo persone, non braccia, avevano protestato qualche giorno fa i braccianti agricoli di Foggia, e alla fine è arrivato l'accordo sulla regolarizzazione non soltanto dei braccianti ma anche di colf e badanti. È arrivato ieri, quando ormai era notte, dopo giorni di discussioni, tensioni e rischio di una spaccatura nel governo. Il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, inizialmente critico, ha parlato di accordo soddisfacente. Soddisfatta la ministra Bellanova, che si è battuta dall'inizio per questo risultato. Ha vinto la dignità delle persone, ha detto, viene regolarizzato chi ha un permesso di soggiorno scaduto, quindi milioni di badanti e i lavoratori agricoli che hanno già lavorato e possono chiedere un permesso per 6 mesi. Esclusi dalla sanatoria i datori di lavoro condannati per caporalato o reati come lo sfruttamento di prostituzione e immigrazione clandestina. Soddisfatta anche la ministra dell'interno Lamorgese, l'emersione del lavoro nero, ha detto al Question Time al Senato, riporta a una condizione di legalità. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è già subito una correzione, perché è notizia di pochi istanti fa: la riunione del Consiglio dei Ministri sul decreto rilancio, inizialmente prevista per le 14, è prevista invece alle 17, con uno slittamento di qualche ora, è quanto si apprende da fonti di governo. Sentiamo allora. L'obiettivo è chiudere nelle prossime ore la manovra anticrisi da 55 miliardi per 155 di liquidità e farla approdare in gazzetta ufficiale entro una settimana, in modo da rinviare a metà settembre i versamenti di ritenute, IVA e contributi alle imprese colpite dalla pandemia. Nel decreto rilancio per le aziende ci sono circa 10 miliardi, 4 per lo stop alla rata IRAP di giugno, 6 per i ristori a fondo perduto per le PMI, previsti 2 miliardi per l'adeguamento dei negozi alle norme anti-Covid, 10 miliardi per ulteriori settimane di cassa integrazione con l'allungamento del blocco licenziamenti e 4 miliardi e mezzo per il bonus autonomi, che viene prorogato, così come il bonus babysitter e il congedo parentale. Sì al bonus colf e badanti, al reddito di emergenza e all'ecobonus, attesi nei 3,5 miliardi per la sanità l'aumento del 115% dei posti in terapia intensiva e l'assunzione di 9.600 infermieri. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nuove stime intanto sulla dimensione della crisi economica in Italia. Le imprese a rischio nel commercio e nel turismo sono il 10% del totale, pari a circa 270.000, per un totale di 420.000 posti di lavoro che potrebbero essere persi per l'emergenza Covid. Lo ha detto Enrico Postacchini di Confcommercio in audizione al Senato oggi, chiedendo interventi immediati a ristoro delle perdite subite, perché gli operatori, ha detto, hanno perso la pazienza. Adesso invece cambiamo argomento, prima di tornare a estendere ancora la pagina sull'emergenza coronavirus, che riguarderà anche la seconda parte di Effetto Giorno. Polemiche stamattina alla Camera, in aula, per le gravi affermazioni di un onorevole leghista che ha definito Silvia Romano neoterrorista. Lo scontro su Silvia Romano si sposta dai social all'aula di Montecitorio. La cooperante rapita in Kenya viene chiamata neoterrorista e scoppia la bagarra. Ad accusarla il deputato della Lega Alessandro Pagano durante il suo intervento in aula. Siamo stati in presenza, e lo continuiamo a essere, di una volontà antireligiosa fortissima. Poi però abbiamo osservato che quando è venuta la neoterrorista, visto che è risaputo che Shabab questo è e questo finanzia. Pagano viene immediatamente ripreso dalla vicepresidente della Camera, Mara Carfagna. Onorevole Pagano, credo che riferirsi a Silvia Romano utilizzando il termine di neoterrorista sia alquanto improprio. Per il PD la Lega deve chiedere scusa, Emanuele Fiano. Perché esiste il reato di terrorismo e di apologia di terrorismo in questo paese. Ed è inaccettabile che qualcuno pensi che quest'Aula sia di proprietà di chi si può permettere in quest'Aula di calunniare e di diffamare una persona che è stata per 18 mesi prigioniera di una banda di terroristi. A Milano intanto la procura apre un'inchiesta dopo la campagna d'odio e l'abitazione di Silvia Romano è pattugliata dalle forze dell'ordine. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso riprendiamo invece con, come abbiamo già anticipato, la cronaca dell'emergenza coronavirus nel mondo. Gli Stati Uniti restano il paese con il maggior numero di vittime, ma il contagio cresce in Sud America, in particolare in Brasile. In attesa oggi delle indicazioni della Commissione europea, nel vecchio continente e anche a livello globale si fanno prove tecniche di ripartenza con continui passi avanti e indietro. A livello europeo, come anticipa il commissario all'economia Gentiloni, sulla stampa si parla di un recovery fund da almeno 1.000 miliardi, in parte attraverso sussidi, ad esempio per turismo e altri settori specifici o alcune aree geografiche, secondo il principio di solidarietà, ma sottolinea Gentiloni, la recessione è disomogenea ed è una minaccia esistenziale alle fondamenta dell'Unione, perché mette in pericolo il mercato comune. Dati pesanti, infatti, anche per il Regno Unito in vista della ripresa domani delle attività di alcuni settori, dietro il monito ad aziende per la sicurezza. Il paese ha subito una contrazione senza precedenti con un calo del PIL pari al 5,8% dal lockdown di marzo. E mentre Berlino adotta un sistema semaforo per monitorare, la Germania allenta i controlli alle frontiere. Fuori dai confini europei si susseguono gli annunci di apertura e gli alert, come negli Stati Uniti, che pagano una pesante disoccupazione. In India si attende il piano di stimolo dell'economia da 256 miliardi di dollari e mentre il Libano interrompe la fase 2 con una nuova chiusura totale fino a lunedì sera, in Tunisia, dove l'emergenza coronavirus sembra sul punto di essere controllata, saranno comunque necessari 5 miliardi di euro per completare il bilancio 2020. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto, a proposito della possibilità di spostarsi non solo all'interno dell'Europa con le linee guida della Commissione europea che dovrebbero essere messe a punto oggi per un piano, come avete sentito, di riaperture delle frontiere tra Stati senza procedere in ordine sparso, sarà anche questo tema dell'intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte venerdì prossimo, quando verranno annunciate le nuove misure di allentamento del lockdown, che poi saranno gestite anche d'intesa con le singole regioni che avranno l'autonomia sia sulle attività commerciali sia, come dicevamo, sulla libertà di spostamento dei cittadini. Sentiamo. Da parte del governo c'è ancora molta cautela, ma dal 1 giugno forse si potrà tornare a viaggiare da una regione all'altra. Secondo me sarà anche possibile uscire dalla Lombardia, ipotizza il vice ministro alla salute Sileri. Una decisione verrà presa solo dopo il monitoraggio sull'andamento dell'epidemia nelle singole regioni. L'esecutivo sta anche valutando l'ipotesi di consentire le visite agli amici e gli spostamenti nelle seconde case, ma solo se nella regione di residenza, a partire dal 18 maggio. Per la stessa data è prevista la ripresa delle attività di bar, ristoranti, centri estetici e spiagge. In attesa delle linee guida dell'INAIL, le regioni premono per velocizzare le riaperture. I protocolli su spiagge e ristoranti sono insostenibili, avvertono però le associazioni delle imprese. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È una notizia di cronaca che arriva da Torino, sono tutti negativi e senza tetto spostati ieri da Piazza Palazzo di città all'hub temporaneo di Torino Esposizioni. A rendere noto l'esito dei tamponi arrivati tra ieri sera e questa mattina è la prefettura. Per questi 51 senza fissa dimora si valuta ora una sistemazione definitiva. In mattinata è prevista sul tema una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Operazione contro gruppi di anarchici invece è andata in scena oggi a Bologna. Era la notte tra il 15 e il 16 dicembre 2018 a Monte Donato, sulla collina bolognese, andarono a fuoco alcune antenne e la centralina elettrica che alimenta i ripetitori delle televisioni nazionali e i ponti radio delle forze di polizia e di alcune società che forniscono servizi di intercettazione. Sul posto furono trovati tre inneschi incendiari e su un muro tracciata con lo spray la rivendicazione di un gruppo anarchico. Ad un anno e mezzo dall'attentato, i carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Bologna hanno chiuso le indagini, stamane il blitz, operazione ritrovo, così è stata chiamata. 12 misure cautelari sono state eseguite a Bologna, Milano e Firenze. Alcuni degli indagati sarebbero attivisti di un circolo anarchico del quartiere San Donato, nel centro del capoluogo emiliano. Oltre all'attentato contro i ripetitori, gli indagati sono accusati di atti di violenza con finalità di terrorismo. Secondo gli inquirenti, attraverso la diffusione di messaggi in rete, avrebbero istigato altri gruppi a compiere azioni contro l'apertura dei centri permanenti di rimpatrio e le politiche del governo sull'immigrazione. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora una notizia di cronaca: un alpinista di Ragni di Lecco è stato travolto e ucciso da una valanga in Valtellina. La vittima è Matteo Bernasconi, 38 anni, di Como. L'incidente è avvenuto al Pizzo del Diavolo, ad alta quota, in una vallata alpina tra Ponte in Valtellina e Chiuro in provincia di Sondrio. Riapriremo le strutture sportive al massimo entro il 25 di maggio, se possibile anche prima. Metteremo le risorse a disposizione per attuare il protocollo di sicurezza necessario. Così oggi il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, nella sua informativa al Senato, ha parlato appunto della riapertura, riferendosi anche ai campionati di calcio. Il campionato, se riprenderà come tutti auspichiamo, riprenderà perché saremo arrivati a questa decisione dopo una successione ordinata di azioni e di protocolli che avranno consentito di riprendere il campionato in sicurezza per tutto e tutte, tutti quanti coloro che sono coinvolti in questo mondo. Non era possibile in nessun modo decidere soltanto per una fretta irresponsabile o per le spinte strumentali di chi che sia. 13 e 12 minuti, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con Effetto Giorno e tutte le altre notizie. Ripartiremo dal sindaco di Rimini che invoca no ad ospedalizzare spiagge e alberghi. Ieri sono uscite le linee guida che riguardano la ristorazione ma anche le spiagge. Si tratta di linee guida molto limitative, non sono obbligatorie ma condizioneranno sicuramente la stagione. Ne parleremo tra poco con il sindaco di Rimini e poi vi annuncio alle 13.30 un importante punto sulle cure al plasma, di cui si è parlato moltissimo perché dopo l'avvio di Pavia e soprattutto Mantova, che ha fatto molto discutere col professor De Donno, adesso c'è un protocollo nazionale per queste cure che sono state definite miracolose. Miracolose non sono, ma sono molto importanti. Un protocollo con capofila l'ospedale di Pisa. Ne parleremo alle 13.30. Tra poco, dunque, 349-238-6666. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Il governo ha raggiunto l'accordo alle 17 in Consiglio dei Ministri. Il decreto rilancio da 55 miliardi. Braccianti, colf e badanti, chi ha già lavorato avrà un permesso di soggiorno di 6 mesi. Bagarre in aula alla Camera, un deputato leghista definisce Silvia Romano neoterrorista, per il PD sono parole inaccettabili. Città turistiche sempre più in crisi, senza incassi rischiano il default, no ad ospedalizzare spiagge e alberghi, dice il sindaco di Rimini, ne parliamo tra poco. Allora, 13 e 15 minuti, cari ascoltatori, siamo in attesa di collegarci, come avete sentito dai titoli, con il sindaco di Rimini, Andrea Agnassi, autore insieme ad altri sindaci di città turistiche di una lettera inviata al Presidente del Consiglio Conte, nella quale si parla della crisi che stanno vivendo le città turistiche, le quali fanno affidamento su una serie di introiti che derivano dagli incassi delle attività turistiche, come la tassa sul soggiorno, ma anche tutto l'indotto, e che rischiano in questo momento il default, perché il turismo è ovviamente fermo e non è immaginabile che ci possa essere un turismo quest'estate, soprattutto da parte di chi arriva dall'estero, che contribuisce normalmente per una quota abbastanza importante al turismo nel nostro paese. Questo la lettera inviata a Conte. Poi ieri, quindi di questo volevamo parlare con il sindaco di Rimini, ma siamo in attesa di collegarci con lui. Poi ieri sono uscite anche le linee guida per quanto riguarda l'attività delle spiagge, gli stabilimenti balneari in particolare. Tutti noi sogniamo insomma di poter condurre un'estate, non dico normale, ma insomma che ci possa rilassare un po' dopo 3 mesi a questo punto di lockdown e di vita da reclusi nelle nostre case. E le linee guida però sono abbastanza stringenti: 5 metri di distanza tra le file dei lettini, tra le file di lettini e ombrelloni, 4 metri e mezzo invece tra i paletti degli stessi ombrelloni all'interno di una stessa fila, controlli sulle spiagge libere affidati a vigili e steward, niente asciugamani né persone adagiate sulla sabbia, spogliatoi, cabine, docce, sdraio, lettini da sanificare dopo ogni uso da parte di un cliente. Non solo, ci saranno piscine, idromassaggi in spiaggia vietati. Poi naturalmente deve rimanere la distanza, la solita distanza di 1 metro, 1 metro e mezzo tra le persone, sia in spiaggia ma anche in acqua. E anche qui viene da dire chi li controlla. Il salvataggio, chi effettua un salvataggio deve lavarsi le mani con alcol dopo un massaggio cardiaco e lavare gli indumenti dopo ogni intervento di soccorso. Questo, così abbiamo detto più o meno tutto quello che c'era da dire, ma adesso abbiamo raggiunto e con noi Andrea Agnassi, sindaco di Rimini. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Benvenuto Agnassi. Allora partiamo. Io ho anticipato, non so se lei era già all'ascolto, che insomma, avete insieme ai colleghi di Firenze, Venezia, Roma, le altre città turistiche, avete scritto una lettera al Presidente del Consiglio Conte per lamentare la situazione particolare che riguarda le città turistiche, che senza incassi rischiano di fare default. E questo è un problema, mi viene da pensare, ancora più grave di quello di cui però le chiedo di iniziare a parlare, che invece riguarda la speranza di vivere un'estate, ho già detto, non proprio normale, ma quantomeno in grado di rilassarci sulle nostre spiagge. Partiamo da queste benedette linee guida. Non sono obbligatorie, però condizioneranno naturalmente molto l'azione dei vari operatori. Lei ha detto: non ospedalizziamo le spiagge. Cosa voleva dire? Sì, buongiorno, mi date l'opportunità per magari mettere lì, se è possibile, qualche briciolo di pensiero sul turismo. Nel senso che lei mi ha posto molti temi: linee guida, ospedalizzazione, le città che vanno in default. Allora, io credo che il primo punto è capire a livello dei processi decisionali, governo in primis, se noi usciamo dalla retorica che il turismo è un'industria strategica, il nostro petrolio, eccetera, eccetera, e poi non lo trattiamo mai come tale. Cioè, il Covid colpisce al cuore il turismo perché non esporta merci ma importa persone. Allora, se uno è un'industria strategica e questa è colpita al cuore, occorrerà un piano straordinario per il turismo in questo paese. Non possiamo banalizzare la questione ai 3 metri o ai 4 metri di dove metto l'ombrellone. Ecco, allora, di arrivare, sindaco, mi scusi, ai 3-4 metri, che invece secondo me sono un punto che comunque interessa le persone, ma dal punto di vista della sua posizione, insomma, di quella di un settore che rischia il collasso e con lui si porta dietro anche le città che hanno una vocazione turistica. Esattamente. Mi dice che cosa c'è nel decreto rilancio, perché ci sono 55 miliardi sul piatto, che cosa, per quanto riguarda il tema che sta sollevando voi, cosa contengono? Allora, poi dopo veniamo alle linee guida. Nel decreto rilancio c'è sostanzialmente un pacchetto di risorse di 3 miliardi e mezzo per compensare, diciamo così, le mancanze entrate che tutti i comuni in Italia hanno in relazione al lockdown, alla pandemia. Sì. Queste risorse sono completamente insufficienti, soprattutto per le città ad alta vocazione turistica. Il sindaco di Firenze, di Venezia, di Milano, di Roma, non è che si sono svegliati una mattina e hanno detto adesso non sappiamo cosa fare, chiediamo qualcosa al governo. Lei, come giustamente la ringrazio davvero, perché poi approfondite anche nel merito, lei pensi che le entrate dei comuni a vocazione turistica sì. sono composte ad esempio dalla TARI, dalla tassa dei rifiuti. Se le imprese del turismo, della cultura, della creatività sono chiuse, come fanno a pagare una tassa sui rifiuti che non producono? E i comuni come fanno ad avere quelle entrate? L'occupazione solo pubblico, la TOSA, se gli alberghi, i ristoranti, gli stabilimenti balneari sono chiusi, come fanno a pagare la tassa di un suolo che non occupano? La tassa di soggiorno, se non c'è chi soggiorna, come fanno i comuni ad avere le entrate dalla tassa di soggiorno? Sulla TOSAP mi faccia dire una cosa, scusi sindaco, poi la faccio proseguire. Sulla TOSAP, giusto per non sembrare strabici, siccome da questi microfoni qualche giorno fa abbiamo reso conto della proposta del presidente Lanci De Caro, sindaco di Bari, di, come dire, di togliere questa tassa sugli spazi esterni, e però con, per facilitare l'attività dei ristoratori che possono sfruttare questo aspetto, con una compensazione che nel decreto rilancio doveva essere prevista. Le risulta che ci sia questa compensazione, ecco, almeno una parte? Per questo Antonio De Caro, il nostro presidente, è tutti i giorni nell'ambito di una trattativa col governo, ma se il governo non decide di coinvolgere strategicamente i territori, non è che noi ci possiamo affidare, poveretto, al presidente De Caro che tutti i giorni strappa qualcosa o tenta di strappare qualcosa per i comuni. Nel decreto di rilancio non c'è compensazione per le mancate entrate della TOSAP, della TARI e della tassa di soggiorno. Il mio collega amico di Firenze, Dario Nardella, parla di uno sbilancio per il comune di Firenze di 200 milioni. Noi a Rimini siamo su uno sbilancio di 50-60 milioni. Per quello torno al punto di prima. O si legge il turismo come l'industria colpita al cuore, quindi anche le entrate delle città turistiche sono colpite al cuore, oppure andiamo in default. Come faccio io a dare una mano alle imprese della mia, del mio territorio dicendo togliamo la tassa sui rifiuti se lo Stato non mi aiuta a compensare queste mancate entrate? Quindi il tema è molto serio e le dirò di più. Bene Franceschini, 2 miliardi, il bonus vacanza, ma il turismo oggi ha bisogno di un piano straordinario. Se entra in crisi la siderurgia, la chimica, la meccanica, si mobilita mezzo mondo. Quando, come dire, è colpito al cuore il turismo, non possiamo prevedere questo, dei provvedimenti. Questo è vero, questo è vero. È mancata forse una rappresentazione chiara di questi interessi che sono frammentati su tante piccole attività e forse non sono in grado di avere la stessa voce di quello che invece accade per altri settori che quando vanno in crisi, magari parliamo per settimane, è anche colpa nostra, devo dire la verità, di Alitalia. E poi invece, che fa parte pure del settore turistico, ironia della sorte, però poi ci dimentichiamo della miriade di imprese che lavorano su questo e che in questo momento sono in ginocchio. Abbiamo detto su questo, però Gnassi, prima di salutarci, torniamo sul tema delle linee guida. Allora, io le ho lette, diciamo, pedissequamente, 5 metri di distanza tra le file, 4 metri e mezzo tra gli ombrelloni. Sembra tanto, però io immagino anche che questo vale anche per i ristoranti. Chi tornerà a fare queste attività voglia tornarci in serenità, quindi bisogna trovare un equilibrio tra la capienza ma anche la serenità delle persone. Come giudica, diciamo, questo approccio e come vi state organizzando in Riviera Romagnola? Ci stiamo organizzando in questo modo. Abbiamo fatto un'operazione seria, abbiamo costruito una task force di epidemiologi, virologi, operatori, categorie economiche. Noi siamo la terra, come dire, che non vuole rinunciare al sogno, al sorriso, alla dolce vita, che va messa in sicurezza. Se però le linee guida, diciamo così, dell'INAIL, in qualche modo danno l'idea di una sorta di ospedalizzazione di un albergo e di una spiaggia, addirittura prevedendo che il bagno a mare si debba fare contingentato con una misura di metri definiti non si sa bene da chi, beh, come dire, un conto è la sicurezza e un conto è l'impossibilità di dare anche sicurezza, perché non è che possiamo sentire gli stessi epidemiologi che ci dicono che l'acqua salata addirittura non trasmette il virus, anzi è benefica, così come no, l'aria con lo iodio di mare, e poi costruiamo delle misure per cui uno fa il bagno a 10 metri uno dall'altro e qualcun altro deve addirittura stare lì col metro a misurare. Cioè, le voglio dire, tra la sicurezza e l'appropriatezza bisogna che noi troviamo una linea molto definita. Le nostre spiagge saranno le più sicure, le posso garantire che i nostri alberghi adotteranno quelle linee guida per cui uno può stare più sicuro che quando va a fare la spesa al supermarket. Però dare un'idea di un'ospedalizzazione del paese, beh, questo è un controsenso. Io la ringrazio, Gnassi, grazie per le sue parole, per il suo appello, per diciamo, la forza anche con cui porta avanti queste tematiche. Poi aggiungo solo che toccherà naturalmente anche a tutti noi non far sembrare un ospedale le spiagge o anche i ristoranti, eccetera. Questo naturalmente riguarda l'impegno degli operatori e anche delle persone, di tutti noi. Dovremo cercare di vivere questa situazione anche nel modo giusto. Può sembrare una differenza, così, una sfumatura, ma invece può essere sostanza l'impegno di ognuno di noi, operatori per primi, di far sembrare questa, non dico una festa, ma insomma andare in spiaggia poi deve essere anche una festa. Adesso invece allarghiamo il quadro e andiamo a sentire l'andamento dell'epidemia nel mondo, perché per esempio sul tema dell'estate, della luce, del calore e della temperatura che incide negativamente sul virus, ebbene dal Sud America arrivano notizie non proprio confortanti. In attesa oggi delle indicazioni della Commissione europea, nel vecchio continente e anche a livello globale si fanno prove tecniche di ripartenza con continui passi avanti e indietro a livello europeo. C'è stato un errore e il servizio giusto non è questo, ma è un altro. Non l'abbiamo il servizio? Va bene. Oggi c'è un po' di confusione in regia. Va bene, allora passiamo al prossimo approfondimento e introduciamolo con il nostro prossimo ospite, che è Daniele Manni, insegnante. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Insegnante di informatica, finalista al Global Teacher Prize del 2015, il Nobel degli insegnanti, è stato così ribattezzato. È, insomma, un premio importante, non l'avevamo sentito a suo tempo anche per questo, perché premia gli insegnanti più bravi, più creativi, più impegnati al mondo, e lui è uno di questi. Lei insegna informatica da diversi anni all'Istituto Costa di Lecce, giusto? Sì, giusto, anche se sul commento di prima escluderei l'aggettivo bravi, quello è una sorta di riconoscimento per docenti alternativi, fuori dall'ordinario. Va bene, perché effettivamente lei è fuori dall'ordinario, nel senso che nella sua modalità di insegnare dedica molte ore, quasi la metà del tempo dedicato agli studenti, ad attività, diciamo, extra curricolari rispetto ai programmi quelli ordinari. Che cosa fa? Esatto, sì, da oltre 15 anni praticamente lì nella nostra scuola di Lecce noi iniziamo subito con i ragazzi del primo anno, quindi a 14 anni, a incentivarli verso l'autoimprenditorialità. La nostra è una scuola a indirizzo economico e ci sembra giusto, come dire, anche pratico, che il modo migliore per insegnare l'economia è farla, nel vero senso della parola. Quindi stimoliamo i ragazzi a inventarsi quelle che oggi vengono chiamate le start-up, delle piccole micro idee imprenditoriali, e le mettiamo realmente sul campo. Senta, con lei vogliamo parlare del, come dire, del grande assente, no, di questa fase 2, cioè della scuola. Perché abbiamo una data per tutto, per ripartire, dalla toilettatura per cani, senza voler, diciamo, essere troppo ironici, ma insomma, fino alle messe che riapriranno dal 18 di maggio. Le attività commerciali più o meno tutte hanno un piano. Non c'è un piano per la scuola, o almeno si sa che si sta lavorando a un piano, ma non ci sono date. E mentre invece in altri paesi si è fatto magari delle scelte, io cito soltanto due paesi, la Francia, dove asili e materne stanno riprendendo in questi giorni e si è deciso di ripartire dai più piccoli, non sono mai stati interrotti questi servizi per i figli dei genitori che erano impegnati come operatori nella lotta al coronavirus, medici, infermieri, forze dell'ordine, eccetera. Oppure cito anche la Germania, dove sono rientrati già quelli che devono fare gli esami quest'anno, quindi una scelta, e poi se non ricordo male ripartiranno proprio in questi giorni e le prime classi dei cicli, delle medie, delle elementari e delle superiori, per come dire, venire incontro a chi diciamo, per chi l'interruzione è stata più, diciamo, più sentita anche dal punto di vista psicologico, perché avendo appena iniziato un ciclo scolastico non era giusto lasciarli indietro, almeno loro. Quindi delle scelte. In Italia sembra che si voglia portare avanti tutti, ma mi sembra che non si stia portando avanti nessuno. Lei intanto condivide questo principio per cui o tutti o nessuno a scuola? Sì, diciamo che conoscendo bene la realtà italiana sono assolutamente d'accordo sul o tutti o nessuno, e devo dire la verità che sono anche d'accordo sul nessuno, cioè nel senso che adesso non conosco esattamente le situazioni degli altri paesi e la situazione con la gravità della pandemia, se è paragonabile alla nostra oppure no, come non conosco neanche perfettamente le date di chiusura dell'anno scolastico, mentre in Italia la data di chiusura dell'anno scolastico è esattamente fra meno di un mese praticamente. Come dire, se dovessimo riaprirle le scuole, anche se nella migliore delle ipotesi non ci sono più contagi, quindi ci sentiamo tranquilli, dovremmo aprirla intorno al 20, 21, 22 maggio per poi chiuderle dopo 10 giorni. Ma non si potrebbe andare avanti, che so, fino a giugno inoltrato, fino a luglio, per una volta? Tra le varie ipotesi probabilmente sono state prese in esame, ma è stato scelto una cosa diversa. Ecco, lei diceva non c'è una data, diciamo che la data c'è, non è sulla carta, ma è il prossimo anno scolastico. Se devo dire la mia, mentre giustamente la task force sta lavorando per capire come ricominciare l'anno scolastico, io sono estremamente ottimista e mi auguro veramente che si possa iniziare nel modo più tranquillo possibile, con magari 2-3 mesi prima a contagi zero, e che quindi si possa di nuovo ritornare a scuola tutti quanti, ecco, in però, presenza con dovute cautele. Io ho chiesto la sua opinione proprio perché, essendo un insegnante creativo, di questa creatività ho ottenuto anche dei riconoscimenti. Non dico che speravo in qualche proposta o in qualche soluzione magica, che non esiste ovviamente, professor Manni, però... cioè, qui bisogna fare però uno sforzo, no? Di riorganizzazione, anche di fantasia, di fare delle scelte. Ho citato la Francia e la Germania, dove comunque molti studenti, abbiamo visto anche delle foto, stanno facendo lezione nelle palestre, nei corridoi, perché chiaramente bisogna aumentare la rarefazione. Però lei dice si potrà tornare a scuola se ci sarà una fase di contagi zero per un po', e se questo non avvenisse cosa facciamo? Continuiamo a tenerle chiuse le scuole? No, assolutamente, sicuramente se non abbiamo proprio le condizioni ottimali, sicuramente le scuole dovranno aprire. Adesso sulle modalità ne sentiamo di ogni materia e di ogni qualità praticamente, tra le proposte del metà in classe e metà fuori. Diciamo che l'Italia sicuramente, probabilmente, non, io non credo sia realizzabile l'ipotesi di, ad esempio, la scuola all'aperto. Perché la scuola all'aperto probabilmente per noi qui nel meridione è un po' più fattibile, al settentrione è un po' meno fattibile. Ma guardi, la scuola all'aperto è un caposaldo anche di alcune scuole del nord, poi anche per esperienza professionale ci sono scuole all'aperto in tutta Italia, poche, quelle che vanno al mare, per esempio ad Ostia, adesso non le sto a citare, nel Bosco, in Liguria, in Piemonte, quindi con un po' di fantasia ci si potrebbe anche arrivare, però... Parecchia fantasia e parecchio spazio, anche perché mentre in una scuola ci stanno 33 classi in un solo edificio con dai 20 ai 30 alunni, sì, per ogni classe, immaginarli in uno spazio all'aperto, ogni scuola avrebbe bisogno di ettari probabilmente. Va bene, professor Manni, voi per quanto riguarda l'Istituto Costa di Lecce state pensando a qualcosa in particolare o attendete le linee guida della task force che per ora allora, non ci sono? Allora, noi diciamo che siamo un tantino favoriti proprio per quello che lei raccontava prima. Da diverso tempo siamo tecnologicamente abbastanza in avanti, perché io, insegnando un po' informatica, e trattando materie tecnologiche e creando start-up, lavoriamo molto con la rete internet e, come è facile immaginare, le 2 ore settimanali della mia materia non bastano assolutamente, quindi siamo già, come dire, allenati, parecchio allenati a usare le tecnologie anche nelle ore pomeridiane dove la scuola non avveniva. Quindi siamo stati un po' più fortunati ad affrontare questa situazione. Ulteriore nota che bisogna dare merito alla nostra dirigente, la professoressa Dorata Mazzocca, e al nostro responsabile digitale, l'animatore digitale, che dopo appena 5-6 giorni hanno deciso praticamente di fare una scelta importante, che è quella, due scelte importanti. La prima è quella di adottare una piattaforma unica per tutti, sì, per tutti gli alunni e per tutti i docenti. Quindi in una settimana circa sono stati in pratica caricati 1500 nuovi profili su questa piattaforma. La seconda scelta è stata quella di adottare semplicemente l'orario scolastico ufficiale, quindi senza cambiare nulla c'erano la possibilità di collegarsi, magari con ore leggermente ridotte, non di 55 minuti in collegamento, ma magari solo la metà in collegamento e il resto di lavoro. Va bene, grazie professor Manni, buona giornata. Siamo un po' andati lunghi, quindi adesso con un po' di ritardo le informazioni di borsa, poi torniamo i titoli e, come anticipato, cercheremo di fare il punto sulla cura al plasma da pazienti guariti al coronavirus, perché adesso c'è un protocollo nazionale con un capofila, Pisa. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Governo raggiunto l'accordo, alle 17 il Consiglio dei Ministri con il decreto rilancio. Via anche alla regolarizzazione di braccianti, colf e badanti. Chi ha già lavorato avrà un permesso di 6 mesi. Bagarre in aula alla Camera. Un deputato leghista definisce Silvia Romano neoterrorista. Il PD, parole inaccettabili. Cure al plasma. Dopo Pavia e Mantova parte un protocollo nazionale. Ne parliamo col professor Menichetti, capofila a Pisa. Il punto di Alberto Orioli. Oggi è il giorno del decreto da quasi 300 articoli e da chissà quante norme attuative. Andrà ad aggiungersi agli oltre 760 atti normativi tra centrali e regionali già in vigore. Una Babele che finora ha alimentato, oltre ad aspettative spesso deluse, anche un clamoroso gioco dello scaricabarile tra i diversi soggetti chiamati a gestire la crisi. Il sistema dei prestiti garantiti dallo Stato non decolla? Per Patuanelli è colpa delle banche, che naturalmente smentiscono e imputano la debacle a regole e procedure imposte dai provvedimenti governativi che il governo fa finta di non vedere. La cassa integrazione in deroga va a rilento? Per il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, è colpa delle regioni che non fanno avanzare le pratiche. Le regioni naturalmente rimandano al mittente. I danni del coronavirus per i comuni sono da rimborsare? Bene, per il governo si tratta di 3 miliardi, per i sindaci invece potrebbero salire fino a 8. E nella diatriba viene ritirata la possibilità per i comuni di bloccare i pagamenti delle tasse locali. Il governo dice ai sindaci: regolatevi voi. Per i comuni invece il governo vuole lasciare il brutto cerino fiscale nelle loro mani, troppo comodo. C'è solo un denominatore comune in tutta questa situazione, la sensazione di caos. Speriamo che il nuovo decreto non serva ad aumentarla. Eccoci qua con, come anticipato, il professor Francesco Menichetti. Buongiorno. Buongiorno. È direttore dell'unità di malattie infettive dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa, ma anche coordinatore della sperimentazione nazionale della plasma terapia per il Covid, insieme tra gli altri al dottor Perotti dell'ospedale San Matteo di Pavia. Perché non c'è tempo per spiegare, perché glielo anticipo subito, causa ritardi nostri, professor Menichetti, se ne sarà accorto anche lei, dovevamo sentirci un po' prima, abbiamo poco tempo davvero, quindi l'impegno a risentirci per approfondire meglio questo. Partita bene a Pavia e poi a Mantova, ha fatto molto parlare di sé questa cura, qualcuno ha detto miracolosa. Miracolosa non è, ma è una cura molto promettente. In cosa consiste questo protocollo che ha come capofila Pisa? Su quali risultati positivi partite? Diciamo, l'esperienza lombarda è una base solida e molto incoraggiante. Abbiamo bisogno di confermarla con il rigore scientifico che può essere offerto solo da uno studio randomizzato, prospettico, controllato, con un gruppo di controllo su vasta scala, scala nazionale, quello che ci apprestiamo a fare su indicazione e iniziativa dell'AIFA e dell'Istituto Superiore di Sanità. Quanti i pazienti curati fin qua, quanti sono e quanti potrebbero essere in prospettiva con questo suo protocollo, professore? Il protocollo Tsunami, che era del centro Italia, era appena partito e aveva arruolato pochi casi. Il protocollo nazionale deve partire e quindi non abbiamo ancora arruolato nessuno, però ci faremo tesoro della ottima esperienza dei colleghi di Pavia e di Mantova. Avremo però necessità di arruolare poco meno di 500 pazienti distribuiti su 2 gruppi, trattati col plasma e gruppo di controllo, prevedendo delle analisi ad interim. Adesso noi speriamo vivamente che il rallentamento dell'epidemia ci crei grosse difficoltà nel trovare pazienti. Però per ora mi sembra che ce ne siano, purtroppo, lo dico sorridendo, non dovrei sicuramente, però mi sembra che materiale ci sia ancora, però naturalmente speriamo. Lei dice, speriamo che non ci sia. Sarebbe meglio, meglio non averlo. Il nostro ad oggi c'è. Mi dice solo una cosa, che ci dobbiamo salutare. Un tempo per la fine di questo protocollo. Beh, questa è la risposta, è proprio quella, cioè questo è un protocollo che si può fare in 2 mesi con una diffusione della curva epidemica stile Lombardia della prima ora, 6 mesi se invece la diffusione e il contagio rallenta. Va bene. Andiamo a vedere. Grazie professor Menichetti, grazie. Mi scuso per lo scarso tempo a disposizione, abbiamo avuto ritardi nella prima parte. Traffico, torniamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo, tra poco.